2010, 8-9 BPM prod, yo yo. Un po' di vecchia scuola, se, tanto qua siamo tutti metallari. Simo al basso, come quando non puoi ridere. Per tutti voi pagliacci, yo yo. Due sberle fanno sempre bene, yo. Prendi sberle a tempo pieno, perlomeno. Io qui sono l'alieno, ferro in mano, becchi vecchi, modello medioevo. Non ho fighe né di nero, non son grosso, non mi alleno, ma con la penna in mano resto il maestro e tu l'allievo. Spingo hardcore, mica flebo, zero slang, tu alterni gli alter ego, scrivi solo represent. Sogni di comprare un jet, 20 zoccole nel set, la tua faccia su Rai 3, sai com'è, se io preferisco il rap, rappresento la rottura, più di un capodanno al cert. Non gioco le tue carte, troppo sporche anche per me, le tue vacche saltellanti sono sorde. Vivi in bocca l'apatia e racconti che non morde. Riempo fogli di parole troppo molle. Poi ascolto la tua merda e le tue sono già morte. Il sogno americano è troppo forte. Sorte vuole che le tue nuove van siano cucite nel Vietnam da bambini già alle corde. Make money, money, make money, money. Make money, money, make money, money. Make money, money, make money, money. La foto, foto, foto con Beatrice. Tu fai rapper, se, come Britney fa l'attrice. C'è chi dice, testi seri sono troppi, fate i grossi. Io sul comodino Nietzsche, tu li viste con i cossi. Ma ti accorgi che non conta fare i soldi, se il rispetto per te stesso è andato via. Se sputtani anche i tuoi soci, mi svuoti l'energia. Fai la messa da messia, a me sembri solamente la tua stessa parodia. Così sia, io spingo e me ne fotto del tuo studio. Se fai il bozzo, io produco, vivo e dormo in un salotto. Manca poco che non scoppi una vetrina. Qui si munge adrenalina, con le unghie con denunce della vicina sotto. Alzo il master oltre il top, il pop more e more, finché la cassa esplode. Poi conta lo spessore, la tua fotta, le parole. Ogni balbuzia muore, questo è hardcore, perché ti ferma il cuore. Boom.